Capitolo sesto. Trascorsero 4 mesi senza che io mettessi piede in casa della signora Graham, né lei in casa mia. Le signore continuavano comunque a parlare di lei e la nostra conoscenza andò avanti, per quanto lentamente. Non prestavo molta attenzione ai discorsi sulla bella eremita, ma seppi che una mattina si era incamminata con suo figlio fino alla casa del reverendo, senza trovare nessuno a parte Mary Millward. In quell'occasione si fermò comunque a parlare con lei e trovarono talmente tanti argomenti in comune che si salutarono con l'intenzione di rivedersi presto. A Mary i bambini piacevano tanto e a ogni mamma piace incontrare qualcuno in grado di apprezzare il suo tesoro. Anche io la vidi, e non solo in chiesa. Mi capitò di incontrarla mentre passeggiava per la brughiera o i brulli pascoli intorno a casa sua, con un libro in mano e il figliolo al seguito. Quando mi capitava di vederla da lontano, quando andavo a passeggiare o cavalcare o quando giravo da quelle parti per lavoro, cercavo sempre di avvicinarmi. Mi piaceva parlare con lei e con il suo piccolo cavaliere, che una volta superata la timidezza era una gradevole e interessante compagnia. Presto diventammo molto amici, sebbene non saprei dire quanto la mamma ne fosse contenta. Inizialmente ebbi l'impressione che volesse scoraggiare questo rapporto, questa nostra intimità. Ma quando capì che, malgrado tutti i suoi pregiudizi, ero una presenza innocua e che il bambino era felice di vedere me e il mio cane, felicità che altrimenti non avrebbe avuto, iniziò a non opporre più resistenza e ad accogliermi anzi con un sorriso. Arthur, quando mi vedeva, mi chiamava a gran voce e si allontanava dalla madre per corrermi incontro da solo gli ultimi 50 metri. Se arrivavo a cavallo, lo facevo sempre venire con me al galoppo, mentre se ero con un cavallo da tiro poteva godersi una passeggiata più lunga e tranquilla. Lei, tuttavia, non lasciava mai che si allontanasse troppo e lo seguiva, a fatica, più che altro, credo, per assicurarsi che non instillassi in suo figlio strane idee. La cosa che in assoluto le piaceva di più era vederlo correre con Sancho mentre io camminavo accanto a lei, non tanto perché le piacesse la mia compagnia, e di questo mi illusi in seguito, quanto per la gioia di vedere il piccolo fare un po' di attività fisica utile a irrobustirlo, attività che non faceva quasi mai, dato che non aveva amici della sua stessa età. A quella gioia si aggiungeva poi anche il sollievo che quando camminavo a fianco a lei non potevo causare alcun danno a suo figlio, direttamente o indirettamente. Tuttavia, certe volte le piaceva davvero parlare con me. Durante una passeggiata di 20 minuti per la brughiera, era una luminosa mattina di febbraio, accantonò il consueto riserbo e la solita durezza e affrontò un argomento con tanta profondità di pensiero e in tale sintonia con quel che ne pensavo io, che me ne tornai a casa con la testa tra le nuvole. Pensavo che sarebbe stato decisamente meglio passare il resto della vita con una donna così, piuttosto che con Eliza Millward. Poi mi vergognai della mia volubilità. Arrivato a casa trovai Eliza e Rose, una sorpresa che mi fece meno piacere del dovuto. Scambiammo qualche parola, sì, ma la trovai talmente insulsa rispetto alla serietà e alla maturità della signora Graham. Ah, come siamo d'animo mutevole, no. In ogni caso, mi dissi, Eliza non devo sposarla per forza, anche perché mia madre è contraria. Né devo darle troppe illusioni. Se tengo fede a questo punto di vista, riuscirò a liberarmi dal potere ammaliante di Eliza e, per quanto la signora Graham sia, a suo modo discutibile, a curare il male maggiore con un male minore. Di sicuro, infatti, non mi innamorerò della giovane vedova e lei non si innamorerà di me, ma potrei cercare la sua compagnia se la cosa mi dà piacere. Se la stella della sua divinità risplende abbastanza da oscurare quella di Eliza, meglio ancora. Ma ho i miei dubbi. Con questo stato d'animo non feci quasi più passare una bella giornata senza spingermi fino a Wildfell Hall nell'ora in cui sapevo che la mia nuova amica usciva di casa per passeggiare. Eppure le mie speranze di parlare con lei venivano spesso deluse. Si incamminava in direzioni ogni volta diverse, usciva a orari differenti e mi sorse anche il dubbio che lo facesse proprio per evitare di incontrarmi tanto quanto invece io mi impegnavo a incrociarla. Ma era un'ipotesi talmente sgradevole che l'abbandonai subito. Poi, in un tiepido pomeriggio di marzo, mentre ero impegnato a sovrintendere ad alcuni lavori tra il campo e la valle, vidi la signora Graham giù a ruscello con un album da disegno in mano e il piccolo Arthur intento a costruire dighe e argini nell'acqua bassa. Un po' di distrazione era quel che mi serviva e non potevo certo lasciarmi sfuggire un'occasione simile. Lasciai il mio lavoro e li raggiunsi subito, non prima di Sancho, però. Non appena vide il suo giovane amico, gli corse incontro al galoppo, saltandogli addosso con tale impeto da farlo quasi cadere in acqua, ma per fortuna non si bagnò troppo né si fece troppo male da non poterne ridere. La signora Graham stava osservando gli alberi lì intorno nella loro diversità, tratteggiando con cura e abilità gli spogli e rami invernali. Non era di molte parole e io le restai accanto in silenzio, osservando il lavoro della matita. Mi piaceva vedere quelle belle dita eleganti muoversi con tanta maestria. Dopo un po' notai però che le dita indugiavano, si fermavano spesso, tremavano e sbagliavano. A quel punto si fermò e si rivolse a me con un sorriso, annunciandomi che il suo lavoro non traeva beneficio dalla mia presenza lì accanto. Vorrà dire che andrò a parlare con Arthur in attesa che abbiate finito, dissi. Se mamma vuole, mi piacerebbe tanto montare in sella. In sella? A cosa? Non è un cavallo quello laggiù, disse, indicando la grande cavalla nera a lavoro sul rullo. Oh, è troppo lontano, Arthur, meglio di no, gli rispose la madre. Le promisi che gliel'avrei riportato sano e salvo dopo avergli fatto fare un paio di giri, e lei, vedendo anche quanto suo figlio lo desiderasse, acconsentì. Non era mai successo che mi permettesse di allontanarmi così tanto con il bambino. Soddisfatto e felice, svettava sul suo grande destriero con aria tranquilla e compiaciuta. Quando però lo riportai alla madre, mi sembrò di trovarla scontenta che fossimo rimasti lontani così a lungo. Avevo notato che l'album da disegno era chiuso, quindi doveva essere rimasta lì ad aspettarci per un po'. Era tempo di salutarci, ma pur di non lasciarla così presto, l'accompagnai per metà strada. Durante il tragitto si ammorbidì un po' e la cosa mi rese felice. Eppure, giunti in vista della villa, si arrestò e si girò a guardarmi di scatto, come a dire che la nostra conversazione sarebbe finita lì e che a quel punto le nostre strade si sarebbero separate. Ed era in effetti proprio ora di tornarmene a casa. La limpida, fredda sera stava cadendo, infatti. E il sole era tramontato e nel cielo grigio chiaro già brillava una luna gibbosa. Eppure non riuscivo a lasciarla risalire verso una casa tanto solitaria senza provare una forte compassione. La villa ci osservava dall'alto, silenziosa. Dalla finestra al piano terra brillava una debole luce rossa, mentre tutte le altre erano buie, alcune senza vetri né infissi, erano aperte sul loro interno cavernoso e scuro. Non trovate che sia un luogo desolato in cui vivere? Le chiesi dopo aver osservato la casa da lontano. Talvolta sì, disse. Quando Arthur è andato a dormire, io resto da sola d'inverno a sentire ululare il vento che rimbomba per le stanze deserte. Non c'è niente, né libro né ricamo, che possa distogliermi dai più cupi e angoscianti pensieri. Ma non voglio lasciare troppo spazio a certe debolezze. Se Rachel è soddisfatta di vivere così, perché mai non dovrei esserlo anch'io? In fondo, siamo fortunati a poter godere di questa possibilità, finché dura. Pronunciò l'ultima frase sottovoce, più a se stessa che a me. Poi mi augurò la buonanotte e si allontanò. Mi ero appena incamminato verso casa quando vidi il signor Lawrence salire per il sentiero sconnesso in sella al suo pony grigio. Mi avvicinai per salutarlo, dato che non ci vedevamo da tempo. Non era la signora Graham quella con cui stavate parlando? Mi chiese lui dopo avermi salutato. Sì? Ah, mi era parso, infatti, disse carezzando la criniera del cavallo. Con aria scontenta, forse, di quanto gli avevo appena detto o di qualcos'altro. E quindi? Niente, rispose lui. Mi era sembrato di aver capito che non vi piacesse, aggiunse con un sorriso sarcastico. Già, ma un uomo può cambiare idea quando approfondisce una conoscenza, non credete? Certamente, disse, sciogliendo un nodo nella criniera del cavallo. Poi si voltò di scatto verso di me e mi chiese: E voi? Avete cambiato idea? Non direi, no. L'idea che avevo è rimasta quella, solo un po' migliorata. Capisco, commentò guardandosi attorno in cerca di altri argomenti. Guardò la luna e disse qualcosa su quanto fosse bella quella serata, ma non gli diedi spago, tanto mi parve che fosse fuori tema. Lawrence, siete innamorato della signora Graham? Gli domandai guardandolo dritto negli occhi. Non si mostrò offeso come mi aspettavo, ma sussultò invece, e poi rise come trovando l'idea stessa divertente. Innamorato di lei? Ma come vi salta in mente? Disse. Beh, sembravate molto interessato al fatto che potessi aver approfondito la sua conoscenza o cambiato idea su di lei. Ho pensato che foste geloso. Rise ancora. Geloso? No. Solo che credevo avreste finito per sposare Eliza Millward. Beh, credevate male. Non ho intenzione di sposare nessuna delle due, se è per questo. Allora fareste meglio lasciarle stare. E voi sposerete Jane Wilson? Arrossì e toccò di nuovo la criniera del cavallo. Non credo. Allora fareste meglio a lasciarla stare. Avrebbe potuto rispondermi che in fondo era lei a non lasciar stare lui. Invece se ne restò lì, senza dire nient'altro, per mezzo minuto buono. Quando cercò di nuovo di cambiare argomento, glielo lasciai fare. Ancora una sola parola sarebbe stata un colpo di grazia per lui. Arrivai tardi per il tè, ma mia madre mi aveva tenuto in caldo la teiera e un poco di focaccia. Mi rimproverò, tuttavia accettò le mie scuse quando mi lamentai del sapore amaro che aveva preso il tè. A quel punto versò il fondo della teiera nella scodella e chiese a Rose di riempirla con del tè fresco. Lei obbedì, facendo un gran baccano e protestando. Al posto suo sarei rimasta senza tè, e basta. E anche Fergus si sarebbe dovuto accontentare e mostrarsi anche riconoscente. Invece, quando si tratta di tè, non si fa mai troppo. Se a cena c'è qualcosa di buono, mamma mi fa capire con un occhiolino che è meglio se non lo tocco e se ne mangio un po' mi rimprovera subito. Rose, non esagerare, lasciane un po' a Gilbert. Io non conto niente. In salotto è un continuo dire: Rose, metti via le tue cose, accendiamo il caminetto, facciamo ordine prima che arrivino loro. E in cucina, Rose, la torta fa la bella grande, che i ragazzi avranno fame. Non mettere troppo pepe, lo sai che non gli piace. Non esagerare con le spezie nel budino, che Gilbert lo preferisce semplice. O ancora, metti tanta uva passa nel plum cake, che a Fergus piace. E se provo a dire, ma a me non piace, mi sento rispondere che non devo pensare a me stessa. Rose, nelle faccende domestiche dobbiamo avere due obiettivi, il decoro e accontentare gli uomini di casa. Alle donne sta bene tutto, in fondo. Io trovo che sia un ottimo punto di vista e sono certa che anche Gilbert la pensa così, disse mia madre. Quantomeno si tratta di un punto di vista molto conveniente per noi, dissi. Ma se vuoi davvero tenere conto di quel che più mi piace, dovresti pensare di più ai tuoi bisogni e alla tua convenienza. Rose invece è perfettamente in grado di badare a se stessa e quando compie qualche sacrificio non manca mai di sottolineare quanto le costa. Io, se fosse per te, abituato come sono a venir servito, a vedere i miei desideri persino anticipati, potrei vivere nell'ignoranza di quanto è stato in realtà fatto per me, se Rose non me lo facesse sapere, e vivrei nella più profonda autoindulgenza. Darei le tue attenzioni per scontate, senza mai sapere quanto in realtà ti sono debitore. Non lo saprai finché non ti troverai sposato con una civetta come Eliza Millward, preoccupata solo del proprio piacere e dei propri interessi. O con una donna superba e cocciuta come quella signora Graham, incurante dei suoi doveri e profonda conoscitrice solo di quello di cui non dovrebbe nemmeno interessarsi. Allora sì che noterai la differenza. Eppure vedrai, mi gioverà. Non sono certo venuto al mondo solo per godere delle virtù e dei buoni sentimenti altrui, ti pare? Ma anche per mettere in pratica i miei, e quando sarò sposato sarò più contento di donare felicità a mia moglie che di riceverne. Oh, tutte sciocchezze, Gilbert, caro. Parli come un bambino. Ti stancherai presto di coccolare tua moglie, per quanto bella e affascinante sarà. E lì arriveranno i guai seri. Beh, bisognerà aiutarsi a vicenda. Perché sia possibile, ciascuno di voi dovrà occuparsi di quanto gli compete. Tu delle tue cose e lei, se è degna, delle sue. Il tuo dovere principale è di fare in modo che la tua volontà sia rispettata, e il suo quello di rispettarla. Tuo padre, pace all'anima sua, è stato il marito migliore del mondo, ma 6 mesi dal matrimonio mi sarei aspettata piuttosto di vederlo volare che di vederlo impegnato a farmi piacere. Mi ha sempre detto che ero una brava moglie e che facevo il mio dovere, così come anche lui ha sempre fatto il suo. Era preciso, puntuale, non alzava mai la voce senza che ve ne fosse ragione, ha sempre fatto onore a quel che gli preparavo per cena, senza quasi mai rovinarlo presentandosi a tavola in ritardo. Ecco. Cos'è che una donna deve aspettarsi da un uomo? Tu cosa ne dici, Holford? Sono tutte qui, le tue virtù in casa? Tua moglie non si aspetta nient'altro da te? Capitolo 7. Non passarono molti giorni. Era una mattina tiepida e il terreno era morbido sotto i miei passi. Si era appena disciolta l'ultima nevicata che aveva lasciato qua e là dei lievi corrugamenti sotto le siepi, ma già si vedevano spuntare le primule e si sentiva il canto dell'allodola all'amore, all'estate, alla speranza e a ogni cosa divina. Ero sul fianco della collina a godere di queste meraviglie e ad assicurarmi che gli agnelli e le loro madri stessero bene quando notai tre sagome che salivano lungo il sentiero. Erano Eliza Millward, Fergus e Rose. Li raggiunsi attraverso il campo. Mi dissero che stavano andando a Wildfell Hall e dissi loro che sarei andato volentieri anch'io. Porsi il braccio a Eliza, che lo accettò subito, separandosi da quello di mio fratello, al quale annunciai che poteva tornare a casa, che le ragazze le avrei accompagnate io. «Scusa tanto, ma guarda che sono loro che stanno accompagnando me. Avete tutti avuto modo di conoscere questa affascinante forestiera tranne me, così volevo anche io la mia occasione». Rose mi ha detto che non mi avrebbe mai e poi mai accompagnato se non fosse venuta con noi anche Eliza, e io sono andato di corsa a chiamarla a casa del reverendo. Abbiamo fatto tutta la strada a braccetto come due innamorati e adesso arrivi tu, me la strappi e mi vuoi anche togliere il piacere di questa visita? Perché non te ne torni alle tue campagne e alle tue bestie, villano che non sei altro? Che ci fai con un gruppo di gentiluomini e signore che non hanno di meglio da fare nella vita che andare a impicciarsi in casa da altri per ficcare il naso in ogni angolo e segreto? Che ne sai di come ci divertiamo noi? Perché non venite tutti e due? Suggerì Eliza, soprassedendo sulla seconda parte del discorso. Ma sì, andiamo tutti. Più siamo e meglio è. In quella stanzona tetra, piena di mobili tristi, ci servirà più allegria possibile, disse Rose, a meno che non ci faccia di nuovo accomodare nel suo studio. E infine andammo tutti quanti. La domestica, una donna magra e di una certa età, ci guidò verso una grande stanza che era come quella che Rose mi aveva descritto quando era andato a trovarla la prima volta. Una camera ampia e spaziosa, ma con finestre alte e piccole e poca luce, dei pannelli e un caminetto in rovere scuro. Quest'ultimo lavorato senza stile, qualche sedia, uno scaffale disordinatamente pieno di libri e altri oggetti, e infine un vecchio pianoforte. La signora era su una poltrona dalla spalliera alta e rigida. Su un lato aveva un tavolino che usava in parte come scrittoio e in parte come tavolo da lavoro, e sull'altro lato suo figlio, con un gomito sulle sue ginocchia, che le stava leggendo qualcosa con incredibile scorrevolezza mentre lei gli accarezzava i riccioli che gli ricadevano sul piccolo collo bianco e perfetto. Erano in netto contrasto con quanto li circondava, notai. Per quanto quel quadretto si scompose subito dopo che fummo entrati noi, e riuscì a goderne la vista nei pochissimi secondi in cui Rachel tenne aperta la porta per farci accomodare. La signora Graham non sembrava molto contenta di vederci, fu cortese ma incredibilmente fredda nel riceverci. Io mi misi subito da una parte con Arthur e Sancho a divertirmi un po' con loro, mentre Rose ed Eliza davano il tormento alla signora chiacchierando di questo e di quell'altro, e Fergus, seduto sulla sedia con le mani in tasca e le gambe accavallate, guardava un po' il soffitto e un po' la padrona di casa con un'espressione che mi faceva venir voglia di mandarlo fuori a calci. Un po' fischiettava sonoramente e ogni tanto interrompeva la conversazione o si inseriva nelle pause con qualche commento inopportuno del tipo: «Non mi capacito, signora, che abbiate davvero scelto di venire ad abitare in un posto così fatiscente. Se non potevate permettervi di restaurare questa dimora, perché non scegliere qualcosa di più piccolo e ben messo?» Sarà stato per via del mio orgoglio, oppure perché di questo posto così romantico e antico io sono innamorata. Diciamo che in fondo ha i suoi vantaggi. Le stanze sono spaziose e quelle che non uso sono comode perché pur non pagandole posso sfruttarle come magazzino e mio figlio può andare a giocarci quando fuori piove e non possiamo uscire. Inoltre c'è un bel giardino dove io posso lavorare e lui scorrazzare libero. Ho già sistemato alcune cose, in effetti, disse voltandosi verso la finestra. Ho piantato un'aiuola di verdure laggiù, i bucaneve e le primule sono già in fiore e il croco in fondo sta già sbocciando. E come fate a vivere così isolata, con i vicini di casa lontani 2 miglia, senza che mai nessuno passi a trovarvi? Rose diventerebbe pazza. Lei che non è contenta se non vede almeno una dozzina di gonnelle e cuffiette al giorno, per non dire delle teste che ci sono sotto, ovviamente. Mentre voi qui potete stare anche tutto il tempo a guardar fuori dalla finestra senza veder passare neppure una vecchietta che porta le sue uova al mercato? Ma non è detto che la solitudine non sia invece un motivo di attrazione per me. Non amo stare in finestra tutto il giorno e mi piace la tranquillità. È un modo per dirci che preferite essere lasciati in pace e che tutti noi si torni a farci gli affari nostri? In realtà non amo le relazioni troppo strette, ma sono ben contenta di vedere un amico ogni tanto se ne ho. Nessuno può essere completamente felice nella solitudine, quindi se avete intenzione di entrare in casa mia d'amico, sarete sempre benvenuto. Altrimenti lasciate che vi dica che preferirei non vedervi. Così dicendo, tornò a rivolgersi a Rose ed Eliza. Un'altra cosa, signora Graham, intervenne nuovamente Fergus dopo un po'. Stavamo giusto parlando di una cosa venendo qui su cui potrete senz'altro illuminarci, dato che riguarda proprio voi. In effetti, parliamo spesso di voi perché, vedete, la gente non ha molto altro da fare che impicciarsi dei fatti che riguardano i vicini, ed essendo noi tutti quanti nati e cresciuti qua, abbiamo ormai detto quel che potevamo l'uno dell'altra, e il vostro arrivo ci offre la preziosa possibilità di rinnovare questo passatempo. Per farla breve, insomma, dovreste dirci se. Tieni a freno la lingua, Fergus, lo rimproverò Rose, presa dall'ansia. Nemmeno per sogno. Allora dovreste dirci qualcosa su dove siete nata e vissuta. C'è chi sostiene che siate straniera e chi dice che siate inglese, chi pensa che veniate dal nord e chi dal sud. Ebbene, sono inglese e non capisco perché qualcuno dovrebbe dubitarne. Sono nata e cresciuta in una regione della nostra bella isola che non è troppo a nord né troppo a sud. Spero che siate soddisfatto, dato che non ho intenzione di rispondere ad altre domande per il momento. Ancora una. Oh no, basta adesso, disse ridendo. Poi si alzò per venire accanto alla finestra dove mi trovavo io e per sfuggire all'invadenza di mio fratello cercò di attaccare discorso con me. Ricordate, signor Markham, iniziò, e il modo veloce di parlare unito al colorito che aveva sulle guance mi disse inequivocabilmente quanto fosse agitata. Quando parlammo di quella bella vista sul mare un po' di tempo fa, vorrei chiedervi il disturbo di indicarmi la strada per arrivarci. Potrei raggiungerla con l'album da disegno se continuano le belle giornate, anche perché ho esaurito qualsiasi altro soggetto ormai e sono curiosa di vedere nuovi paesaggi. Stavo giusto per risponderle quando Rose mi interruppe. Oh no, Gilbert, non stare a spiegarle la strada, esclamò. Possiamo andarci insieme. Penso che la signora si riferisca a Bay. Di sicuro una lunga camminata sia per lei che per Arthur, ma potremmo andarci tutti insieme per un picnic quando arriva la bella stagione e sarebbe un piacere avervi con noi. La signora Graham era in evidente difficoltà e iniziò a tirar fuori delle scuse. Ma Rose era talmente impietosita dalla sua solitudine o talmente decisa a conquistare la sua amicizia che le respinse tutte e le disse che saremmo stati in pochi, tutti amici e che il panorama migliore si godeva dalle scogliere a 5 miglia da lì. Una piacevole passeggiata per i gentiluomini, mentre noi signore potremmo anche essere trasportate, già che abbiamo intenzione di portare il pony e il calesse, grandi abbastanza per ospitare Arthur e 3 di noi, inclusi i vostri attrezzi da disegno e il necessario per il picnic. Alla fine, insomma, la proposta fu accettata. Il tempo di accordarci meglio su alcuni dettagli e ci congedammo. All'epoca era ancora marzo e fummo costretti a lasciar passare un aprile piovoso e un paio di settimane di maggio prima di decidere di avventurarci. Volendo trarre dalla nostra passeggiata il piacere di un bel paesaggio, allegria, aria buona e l'occasione per fare un po' di moto senza la minaccia di nuvole grigie, venti e strade fangose. Infine giunse la luminosa mattina in cui partimmo. Eravamo la signora Graham e suo figlio, Mary ed Eliza Millward, Jane e Richard Wilson e infine Fergus, Rose e Gilbert Markham. Invitammo a unirsi a noi anche il signor Lawrence, il quale però, per ragioni a noi sconosciute, preferì declinare. Mi recai io stesso a parlargliene. Lui esitò, mi domandò chi c'era e notai che a sentire il nome della signorina Wilson quasi fu tentato di accettare, mentre quando nominai la signora Graham, nella speranza di tentarlo ancor di più, ottenni invece l'effetto opposto e declinò l'invito. E a dirla tutta, non ne fui troppo dispiaciuto, anche se non saprei spiegarti perché. Arrivammo, che era circa mezzogiorno. La signora Graham camminò fino alla scogliera e anche Arthur fece quasi tutta la strada a piedi. Era più attivo e forte rispetto a quando era arrivato, e poi non gli piaceva starsene sul calesse insieme a degli sconosciuti, mentre i suoi unici amici, Sancho, la madre, il signor Markham e la signorina Millward, passeggiavano indietro tranquilli. Ricordo con piacere quella passeggiata, il profumo che emanava dagli alberi di un bel verde acceso che riparavano di tanto in tanto quel sentiero bianco accecato dal sole, e i campi di maggio, pieni di dolci fiori e prati verdi. Eliza non era con me, ma sul calesse con le amiche, felice quanto me, immagino. Quando prendevamo, noi pedoni, una scorciatoia e gli alberi mi privavano della vista del suo amato cappellino, non odiavo quegli alberi né nessun'altra cosa che ci dividesse in quel momento, perché ero abbastanza soddisfatto di stare in compagnia della signora Graham. Inizialmente fu più che mai scostante, intenzionata a parlare solo e soltanto con Mary Millward e con suo figlio. Camminavano vicine e il bambino in mezzo a loro. Ma se la larghezza della strada me lo permetteva, cercavo di camminarle sempre a fianco, mentre Richard Wilson si metteva accanto a Mary. Fergus intanto vagava un po' a caso. Dopo un po' riuscii a catturare la sua attenzione e a tenerla quasi tutta per me. E allora sì che mi sentii felice, perché mi piaceva tantissimo parlare con lei. Se le nostre opinioni erano in accordo, a piacermi erano il suo buonsenso, i suoi sentimenti. Se invece erano in disaccordo, mi piaceva il piglio con cui esprimeva o difendeva tale disaccordo. E anche quando mi rivolgeva sguardi o parole severi, non faceva che rendermi più critico nei confronti di me stesso per averle dato un'impressione tanto sbagliata, e desideroso di migliorare ai suoi occhi e crescere nella sua stima. Alla fine arrivammo a destinazione. Mentre salivamo, non avevamo potuto godere appieno del panorama, ma una volta in cima il mare ci apparve davanti in tutto il suo azzurro viola. Non era calmissimo, tuttavia dai piccoli puntini bianchi in lontananza si capiva che doveva essere leggermente increspato dalle onde. Si vedevano anche dei bianchissimi gabbiani e due o tre barche all'orizzonte. Osservai la mia compagna per vedere che effetto le faceva quel paesaggio. Lei non disse una parola, ma dal suo sguardo capii che non era rimasta delusa. A questo proposito, non so se te l'ho già detto prima, ma aveva occhi bellissimi, intensi, pieni di sentimento, quasi neri più che castani, di un grigio oscurissimo. Dal mare soffiava un'aria delicata, rinfrescante, salutare, che muoveva i suoi morbidi ricci e le colorava il viso e le labbra, solitamente pallidi. Aveva, su di lei, come anche su di me, un effetto inebriante. Quel venticello mi fremeva in tutto il corpo, ma non lasciai che prendesse il sopravvento, mentre lei fissava la scena in silenzio. Notai una nota di celata allegria, uno scintillio come di felicità nei suoi occhi quando incontravano i miei. Era incantevole, mai come allora, e mai come allora sentivo il mio cuore vicino al suo. Ancora 2 minuti da soli e non avrei saputo rispondere di me. Per fortuna il mio riserbo e il resto della giornata furono salvi, perché gli altri ci richiamarono dopo un attimo per andare a mangiare. Rose, con l'aiuto della signorina Wilson e di Eliza, arrivate in calesse un po' prima di noi, avevano imbandito un picnic di riguardo, su una radura affacciata sul mare e riparata dal sole grazie a una roccia e a un gruppo di alberi. La signora Graham si sedette lontano da me mentre avevo vicino Eliza, che fece del suo meglio per essere piacevole. E di sicuro era bella e seducente come sempre, se solo me ne fossi accorto. Ma dopo un po' sentii il mio cuore tornare a battere per lei e trascorremmo in allegria il resto di quella lunga giornata. Dopo pranzo, Rose chiese a Fergus di darle una mano a radunare gli avanzi e le vettovaglie per riporre tutto nei cestini. La signora Graham prese il suo sgabello pieghevole e il materiale per disegnare, chiese alla signorina Millward di badare a suo piccolo e a lui di non allontanarsi troppo da lei, e si avviò su per la collina scoscesa e sassosa per raggiungere una maggiore altitudine e una vista migliore per iniziare a disegnare qualcosa. Nonostante qualcuna delle ragazze le avesse sconsigliato di spingersi tanto lontano. Quando si fu allontanata, a me parve che tutta l'allegria fosse finita, anche se non saprei dire di preciso come avesse contribuito fino a quel momento al buon umore generale. Non aveva infatti mai riso né fatto battute particolari, ma il suo sorriso da solo aveva alimentato la mia felicità ed era bastato un suo commento azzeccato qua e là perché il mio intelletto si risvegliasse, stimolando anche l'interesse per qualsiasi altra cosa venisse detta o fatta nel gruppo. E anche se non me ne rendevo conto, pure i miei scambi con Eliza avevano beneficiato della sua presenza. Da quando si era allontanata, infatti, le battute di Eliza non mi divertivano più. Mi erano di colpo un peso e mi stufai di doverla intrattenere. Avevo voglia di scappare verso quell'altura solitaria dove l'affascinante artista era intenta al suo lavoro e non trattenni a lungo quella tentazione. Appena la mia giovane amica si distrasse con la signorina Wilson, ne approfittai per allontanarmi e in un batter d'occhio raggiunsi il luogo in cui sedeva lei, una roccia piuttosto stretta a strapiombo sul mare. Non avendomi sentito arrivare, quando vide la mia ombra proiettata sul foglio, ebbe un sussulto e si voltò di scatto. Qualsiasi altra signora, almeno tra quelle che conoscevo io, avrebbe gridato per lo spavento. «Oh, caspita, siete voi!» esclamò. «Perché mi avete spaventata? Non sopporto che qualcuno mi arrivi alle spalle!» «Cosa pensavate che fosse?» le risposi. «Se avessi saputo che eravate tanto impressionabili, avrei fatto maggiore attenzione!» «Non preoccupatevi! Come mai siete venuto fin qui? Stanno arrivando anche gli altri, forse?» «No, e poi non credo che su questa piccola roccia potremmo stare tutti quanti.» «Mi fa piacere, sono stanca di parlare.» «D'accordo, resterò in silenzio qui a guardarvi disegnare.» «Ma come, lo sapete che non mi piace?» «Beh, vorrà dire che mi contenterò di guardare questo meraviglioso paesaggio.» A questo non si oppose e per un po' continuò a lavorare tranquilla. Tuttavia, ogni tanto non riuscivo a evitare di abbassare lo sguardo sul foglio, sulla sua mano bianca ed elegante con la matita in mano, sul collo grazioso e i riccioli scuri che vi ricadevano morbidi. Se avessi un foglio e una matita in mano, mi dissi, da qui potrei fare un disegno più bello del suo, raffigurando quel che ho davanti. Non potevo godere di quella soddisfazione, ma mi accontentai di starle accanto in silenzio. «Signor Markham, siete ancora qui?» chiese lei, girandosi verso di me. Nel frattempo mi ero infatti spostato un poco più in là, su una sporgenza di roccia coperta dal muschio. «Perché non tornate a divertirvi con i vostri amici?» «Oh, perché mi hanno stancato, come hanno stancato anche voi del resto. E poi di loro potrò averne abbastanza anche domani o in qualsiasi altro giorno, mentre chissà quando avrò di nuovo il piacere della vostra compagnia.» «Che faceva Arthur quando l'avete lasciato?» «Era in compagnia della signorina Millward ed era tranquillo, anche se sperava che la sua mamma non restasse lontana troppo a lungo. Ho notato che non l'avete affidato a me, la rimproverai, malgrado la nostra amicizia ormai consolidata. Comunque la signorina Millward sa come rendersi simpatica ai bambini e intrattenerli, se non altro», conclusi. «La signorina Millward ha molte altre virtù che le persone come voi non possono rilevare né ammirare. Vi prego, dite ad Arthur che arrivo tra poco.» «In questo caso, se non vi dispiace, aspetterò questi pochi minuti qui per poi accompagnare voi e i vostri attrezzi giù per questa ripida discesa.» «Vi ringrazio, ma in queste situazioni riesco sempre meglio da sola. Permettetemi almeno di portarvi giù l'album da disegno e lo sgabello.» Non si oppose. Ciò nonostante mi sentii offeso dal suo atteggiamento. Voleva chiaramente liquidarmi e mi pentii di essere stato tanto insistente. Mi rassicurò rivolgendomi qualche domanda sul suo disegno in nome del mio buon gusto e capacità di giudizio. Accolse le mie osservazioni e accettò la mia proposta senza esitare. È sempre stato un mio desiderio quello di potermi affidare al giudizio di un altro quando il mio giudizio, dopo aver osservato un soggetto tanto a lungo, smetteva di essere lucido e affidabile. Uno dei molti sacrifici di chi conduce una vita solitaria, commentai. È proprio così, rispose. Tornammo in silenzio e nel giro di 2 minuti annunciò di avere terminato e chiuse l'album. Una volta tornati alla base, trovammo che si erano tutti allontanati eccetto 3 persone: Mary Millward, Richard Wilson e Arthur Graham. Il più giovane dormiva sodo, con la testa appoggiata sulle gambe della signorina, mentre l'altro le era seduto accanto con un libro in mano, un vecchio classico. Non usciva mai senza averne uno appresso per riempire i suoi momenti liberi. Il tempo trascorso senza leggere gli pareva sprecato. Non gli bastavano quel bel sole caldo, l'aria fresca, i suoni tranquilli e la musica delle onde e il vento tra gli alberi. Neppure sedere accanto a una ragazza gli impediva di voler tirare fuori il suo libro per investire meglio il tempo mentre digeriva il piccolo pasto e si riposava, dopo aver camminato tanto, cosa a cui non era certo abituato. Può darsi che di tanto in tanto le rivolgesse comunque la parola, perché lei non pareva affatto offesa dal suo comportamento, anzi, quando arrivammo la trovai con un'aria piuttosto allegra, intenta a osservare il viso di lui, pallido e pensieroso, con grande interesse. Il ritorno fu molto meno gradevole dell'andata per me. La signora Graham viaggiò in calesse e accanto a me camminava Eliza Millward, che doveva aver notato la mia predilezione per la giovane vedova e forse si sentiva un po' messa in secondo piano. Non si dimostrò acida, severa o musona, cose che avrei sopportato senza problemi o di cui avrei riso. Manifestava invece una certa malinconia, una tristezza profonda che mi spezzò il cuore. Provai a tirarla su con qualche battuta verso la fine del viaggio e con un certo successo, ma sapevo bene che il nostro rapporto prima o poi andava chiuso e che stavo soltanto rimandando l'inevitabile momento e alimentando le sue false speranze. Arrivai in prossimità di Wildfell Hall, fin dove il calesse poteva spingersi, a meno di non inerpicarsi su per la collina, cosa che la signora Graham impedì. Lei e suo figlio scesero per proseguire a piedi. A quel punto Rose poté spostarsi a cassetta e io convinsi Eliza a salire sul calesse al posto di Rose. Mi assicurai che si fosse ben sistemata, le augurai la buonanotte e mi affrettai a raggiungere la signora, proponendole di accompagnarli fino a casa per aiutarli a portar su le cose. Ma lei si era già messa lo sgabello sotto il braccio e teneva l'album in mano e insistette che ci congedassimo lì. Fu talmente cortese in quel caso che la perdonai.